la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere e 51 minuti primi, le frequenze quelle di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. Ci stiamo caricando piano piano. Elettrodo ci ha lasciato il microfono a palla, per cui sembrava che stavo strillando, e invece proprio stavamo strillando al microfono della radio. Qui c'è poco da strillare, bisogna invece darsi da fare. Strillare va sempre bene, ma bisogna essere conseguenti. Bene, dicevamo 25 o'clock, dicevamo Radio Onda Rossa. L'emittente che sta sempre impicciata coi sordi e gli spot, bolletta ristorante eccetera, che sentire di tanto in tanto non sono poi così lontani dalla realtà della radio, perché comunque, per quanto noi ce la mettiamo tutta per farcela da soli, per cercare di risparmiarci, di risparmiare il più possibile denaro, di fare una radio che sia tecnologicamente valida, ma che allo stesso tempo il tutto si faccia con i più bassi costi possibili, e gli appelli che facciamo di tanto in tanto a voi tutti gli ascoltatori, ascoltatrici, compagni e compagne, testimoniano che i soldi ce li facciamo bastare e anche avanzare. Malgrado ciò, insomma, le spese e il momento difficile incombe, per cui vi chiediamo, come sempre a tutti e a tutte, di sostenere Radio Onda Rossa in tutte le forme e in tutti i modi, non ultimo quello economico. La radio c'ha un sito che si chiama www.ondarossa.info, la URL. Se avete modo di accedere ad internet, ma sicuramente avrete il modo e la maniera di accedere ad internet, in quanto tutti e tutte siete eternamente connessi, anzi, anzi, la nostra sigla si chiama Disconnection Notice ed è proprio questo quello che vi proponiamo, cioè di disconnettervi un attimo, di connettervi al minimo. Mettete solo lo streaming della radio, che trovate appunto su www.ondarossa.info. Ma se avete un apparecchio e siete qui nelle vicinanze di Roma, accendete la radio in FM, che ci piace così. Peraltro, insomma, stiamo cercando di rimettere il segnale della radio. A breve ve ne accorgerete, in miglior spolvero di sempre, malgrado le condizioni atmosferiche che sono sicuramente deleterie per i macchinari, i trasmettitori, le antenne, eccetera, eccetera, eccetera. Sono quindi deleteri per il segnale. Allora, dicevamo, www.ondarossa.info, andando su Sostieni, ci sta una paginetta intera dove ci sta indicato il modo per sottoscrivere per la radio. Intanto l'avete visto già il sito aggiornato di Radio Onda Rossa, molte immagini, molte figurine, molte icone, andando a cliccare dentro ci stanno pure le cose scritte, però, e soprattutto ci stanno i podcast che potete ascoltare essendo una radio, appunto, preferiamo il parlato allo scritto. Quindi vi dicevo, ve lo ricordo, 61804001 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Vosci 56 00185, Roma, San Lollo. Che poi anche l'indirizzo della radio. Per venirci a trovare tutte e tutti. 25oclock@chiocciolondarossa.info per disturbare via email il sottoscritto e mandargli le vostre proposte musicali. Ce ne arrivano anche di interessanti, devo dire. Dobbiamo indagare meglio, vediamo un po' di organizzare qualcosa. E ondarossa@chiocciolondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione. Tanto intanto ripetiamo, c'è un colpevole di tutto ciò, di colui che ci ha fatto venire un virus, un'influenza, una malattia, quella del mal d'Africa. E questa persona è proprio Giacom, redattore di questa radio per molti anni, in diretta dagli studi con Radio Africa il sabato pomeriggio. nonché redattore di Radio Onda Rossa per la Radio Africa versione 2.0, quella che va in onda durante Mezzetes e in cui si parla appunto di Africa, di politica, di cultura, di storie, di vicende dal continente nero, così veniva chiamato. In una forma e in un modo forse un po' offensivo, per data la presupposizione colonialista degli anni in cui venne coniato questo termine, ma che, come molte volte succede, alle parole, al senso delle stesse, compiono un'iperbole completa. Fino a invertire il significato stesso del senso iniziale. Ad esempio, il termine nigger, che veniva usato dagli schiavisti per indicare appunto le persone di colore, schiavi, che invece divenne un appellativo di orgoglio da parte delle comunità afroamericane già negli anni 50 e 60. E questo è un grande classico, Ali Farka Touré con Ray Cooder. Ali Farka Touré, bluesman maliano, scomparso purtroppo ormai più di 10 anni fa, nel 2006. Questo disco risale alla metà degli anni 90. Tradizionale percussivo che abbiamo appena ascoltato era Saga Peul de Grasnage Snake, scusate, che è la traduzione di proprio di Sega, appunto, in maliano. Ali Farka Touré alla Jarka, Amma Sankare alle Calabash e Omar Touré alle Congas. E questa che ascoltiamo invece è Amandrai, sempre lo stesso lavoro. Farka Touré, a proposito Farka, nel dialetto della zona da dove veniva, dalla zona lungo il fiume Niger, come tutto il Mali poi si snoda intorno alle acque di questo lungo imponente fiume Kanau. Farka significa asino, ma non è affatto appunto proprio per parlare come il significato delle parole cambia non solo nel tempo ma anche da luogo a luogo. Il senso, l'ammiccamento, il riferimento a cui le parole si accostano. Asino nella cultura di quei posti è invece al contrario un complimento, una forma, un soprannome insomma simpatico che si dà per un animale importante, dignitoso e assolutamente rispettabile proprio per la funzione e l'importanza nella economia e nella cultura di quei luoghi. Ali Farkature è cresciuto con l'ascolto di Johnny Hooker, a cui si riferiva già dalla tenera età. Per cui non vi abbiamo finito nemmeno di fare l'introduzione solita e non vi abbiamo detto nemmeno qual è il telefono, il contatto telefonico di questa radio, di questa emittente: 06 491750. E dal blues maliano passiamo un po' più a nord, in Algeria, altre etnie, come piaceva dire agli antropologi nello secolo scorso, i Tuareg. E quindi quel territorio desertico che è il Sahara, il Sahel, che i confini attraversano, ma che vedono dall'una e dall'altra parte del confine gli stessi popoli, le stesse lingue, le stesse usanze, le stesse economie. Loro sono i Maran e vengono appunto dalla terra dei Tuareg, però in territorio algerino. كان مجرى دوائن فلس إيموها يا تكسى وانجروان إيموها يا تكسى وانجروان إرستو سيد الشمد إرستو سيد الشمد E ancora Ali Farka Touré che aleggia come un ispiratore occulto, in questo caso i Mahan sono una band piuttosto giovane di ragazzi appunto del deserto che reinterpretano un po' la tradizione appunto del blues maliano e poi anche del rai algerino. Legate a Tinari Gwen che andremo a ascoltare più tardi. In quanto Saddam, che è un po' così portavoce di Imahan, è cugino di Eyadua Alice, che è uno dei membri dei Tinari Gwen. E dopo Imahug, il blues. Questo è il rock and roll to must, Imahan. Ibane, Prodotti da City Slang tedeschi. Andiamo ad ascoltare i Himagan, andiamo ad ascoltare invece Dissidenten, che sono tedeschi ma innamorati della musica marocchina. provenienti da un paesino vicino al circolo polare artico dal nome abbastanza difficile da pronunciare, perciò non fatemelo pronunciare. Questa era Got Chilled e loro ovviamente Got, una band di cui siamo stati ampiamente promotori e letteralmente infatuati, completamente presi dal loro modo di suonare, dal loro attingere da tutto ciò che è selvaggio e magico, in special modo proveniente dal continente africano e dai suoni che in tutti questi anni si sono contaminati a partire dall'Africa nel mondo. E quindi l'afrobeat, la musica etiopica, in questa commistione enfatica e psichedelica. A dimostrazione che non abbiamo alcuna paura della contaminazione, del rimanere affascinati dagli altri, dalle altre che vengono da lontano. A dimostrazione che se la musica, ad esempio, non ha frontiere, forse è possibile costruire un mondo senza frontiere. E forse è proprio abolendo le frontiere che terremo in piedi, terremo assieme i cocci di questa disgraziata epoca. E così, con un salto di qualche migliaio di chilometri, ritorniamo nel deserto, nel Sahara, l'avevamo detto, Tinari Wen. Lì avremmo ascoltati coloro che, dopo aver imbracciato i fucili della guerriglia, hanno imbracciato poi le chitarre e gli strumenti elettrici, ma anche quelli tradizionali. E tanto per fare un altro salto, un altro volo pindarico, quel che fece Joe Strummer imbracciando la sua di chitarra, anche se guerrigliero non era mai stato, ma uno sfigato riottoso della periferia londinese, quindi Tinari Wen. Questo blues è Talamot. Oh, no. ديت بربرة تلمس جرهنا استريك انت مقدس هو sara gaye chokoro bubudia e mi seno bubudia sungurunu bubudia musokoro bubudia maliyan bubudia tuma mandi mu komi e goma mi ki sara gaye tawuru Tauro mero Ambania Arna samake Abadia Setu Abadia Yaya Abadia Duma mandi mugomi ego mami kisaragaye Enjeyeli yaya Abadia Arna samake Abadia Maisoro Aruna Abadia Tisa Aruna Abadia Gwenfu Aruna Abadia Tauro mero Ambania Tauro Amandia, tu mamandi mugomi e gomami di saragaye. Dimmi folla ugodia, folli che la ugodia, tama folla ugodia, file folla ugodia, ingegnere ugodia, artista ugodia, saturulamo abadia, la gare abadia, gogo abadia, gogo cante abadia, pieca gogo abadia. Para fora o godia, bala ni fora o godia, tu mamandi mugomi e comandi di saragaye. Tauro mero amandia, tauro mero amandia, tu mamandi mugomi e comandi di saragaye. Musokoro pa o godia, emisenu godia, sumurunu godia. Tu mamandi mugomi e comandi di saragaye. Adama Jara Abadia Jime Fola Ugodia Adama Abadia Isa Abadia Badiri Abadia Adama Abadia Adama Dambil Abadia Mamu Abadia Mama Abadia Setu Abadia Arnaka Setu Abadia Yayaka Setu Abadia Kangelenti abadia, daganti abadia, sijoni mantiki abadia, arnasamake abadia, tauro maero ambania, tauro maero ambania, samake la kau ugodia, jara la kau ugodia, tamele la kau ugodia, kone na kau ugodia, tu mama ndi mungomi yego mami kisarakai, chapati la kau ugodia, chapati la kau ugodia. Tarawere la kau ugodia, tu mamandi mugomi ego mami kisaragaye. Tauro maero amandia, tauro maero amandia, tu mamandi mugomi ego mami kisaragaye. Maliyan ugodia, maliyan ugodia, foligera ugodia, aritisu ugodia. Malibaragera ugodia, malituzu tiki ugodia, nyemugoba ugodia. Ayablanya, ugodia, ugodia, ugodia. Tauro maero amandia, tauro maero amandia. Tu mamandi mugomi ego mami kisaragaye. Musokoroba ugodia, sururu ugodia, kamelenu ugodia, demesenu ugodia. Tu mamandi mugomi ego mami kisaragaye. Ambandia, ambandia. Nagwakas, maninagwakit, pal narga ingat, pal narga ingat, kanaya. Cannaia, cannaia, cannaia, cannaia. Non crediamo perciò che esistano maggioranze e minoranze. Crediamo che debba esistere solamente il rispetto. Non non esistono distanze, non esistono. Temperature asfissianti, calde, torride o i ghiacci perenni dell'Artico. Esiste solamente il rispetto, esiste solamente e soprattutto la capacità e la volontà di mettere insieme voci, percussioni e altri strumenti per produrre quei suoni, quella roba strana che entra dentro le orecchie, che ci fa agitare i corpi, ci muove qualcosa dentro la psiche. E perciò abbiamo ascoltato in ordine Tirani Wen, appunto, con la loro Talamot. Poi Melè, un giovane DJ. Che ha mixato Leo Daron e I Franklin nella loro I Fafro. Giovane DJ House, Melè. E poi Momo Tou Dembele, Taromaro. Ancora dal fiume Niger. E poi ancora sotto la nostra voce, dai ghiacci polari della Groenlandia su me. È la loro Kala Livunga, che significa I am a Groenlander. Quindi l'orgoglio di essere, di tenersi, di mantenersi, l'orgoglio di voler in qualche maniera affermare la propria storia, il proprio modo di vivere, ma in conflitto, sapendo che la storia va avanti e che bisogna confrontarsi con essa. Che alla fine siamo il riassunto puro e semplice delle epoche precedenti. Un altro riassunto, questo è il funky, l'afrobeat. 1971, se non andiamo errati, splendidissimo lavoro, tutto da ascoltare, Black Heat. Loro sono i Black Heat. E questo è Wanoa da capo. We'll be right back. From the small place to a bigger city. Oh, it's a bigger bag to strap the ego of a little baby. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a culture without the effort of all of the culture. Oh, but I'm tapped to your pillaging and I'm tapped to your yesterday and I'm tapped to another reason I'm tapped to. It's like a movement without the bother of all of the meaning. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a fat guy in a t-shirt doing all the same. It's like a couple dads and a few friends trying hard to stay in. With history and I'm tapped. Your past and easy, I'm tapped. You're pillaging and I'm tapped. For best results, well I'm tapped. Here comes a rebound, up in the rebound, get another save. Questo è un disco LCD Sound System che, di cui abbiamo cannibalizzato, come si suol dire. La tracklist è inserita a forza dentro l'automatico, la compagna sonata che vi tiene compagnia alla radio. Quando il mixer è vuoto e va in autonomia. Questa era la Movement, la quarta traccia per LCD Sound System. Dove ancora si il punk si va ad attingere, a pescare, a prelevare nell'ancestrale, nel selvaggio, nel suono rozzo e ruvido che producono gli amplificatori delle chitarre quando vengono messe le manopole tutte spostate, tutte ruotate in senso orario. Dopo la mezzanotte, questa è Radio Onda Rossa 06491750, il recapito telefonico della radio per illuminare di rosso la redazione, la regia, il mixer qua. È la radio più rossa che c'è. Se non ci stanno barriere, minoranze, frontiere, figuriamoci se ci può essere. La barriera, la divisione, lo sfruttamento più antico, più grande, che si dipana, che si propaga, che in diagonale attraversa tutta la storia di questo pianeta, di questo mondo, cioè la divisione di sesso. La prima forma di oppressione, di potere, di limitazione della libertà altrui, cioè quella fra i maschi e le donne. E perciò, solo per dire questa sciocchezza, per dire che la Luz è un quartetto femminile che viene dalla California. Rispetto perciò. Questo è il loro disco che si chiama Floater Feature. E questa è la traccia che proprio dà il titolo al disco e lo principia. La prima traccia, Floating Feature. La Luz dalla California, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. disco infiltrator for show. What all I see is all I see. But still you want it. Ah, stop. You can't believe what you believe. Or the disco infiltrator will leave. Oh stupid B. Oh stupid B. But still we want it. delle Mignanas dal sud della Francia. Questa è la drogatissima Trois Banks. E poi i Melvins. Flamboyant Duck, la papera fiammeggiante, Melvins, sempre basiti. Giant Sand, ve li mandiamo da capo, non vi preoccupate. Benché siano passati 22 minuti dopo la mezzanotte, per dirvi che sì, tra qualche settimana sarà il momento di questi suoni qua. A metà febbraio, come al solito, ripercorriamo un po' la storia di questo spazio musicale e del discorso che ha portato avanti in un quarto di secolo, ma anche di più, in un trentennio, dentro questa emittente, dentro questa radio, anche pur non sapendo dove vuole andare a parare questo percorso da capo. Quindi Giant Sand, dal disco di Young Club e Gelb e soci del 1985, che si chiamava Returns to the Valley of Rain, Giant Sand a Radio Onda Rossa 25 o'clock. Down on Town, complication of primal soul, riddles on the wire. I know mother with her whole house on fire. Disfiguration of an inner face, tangle up old French lace. I live in town, but too much going down. Circumstantial delight, stark blue love on a dark black night. their mind off what they've been thinking of. Everybody needs to be swept away for a while. Look out when heartbreak comes along. To anything, except that maybe to war and hell and all the trouble we bring. Love's no answer to anything. Love's no answer. Citazioni hendrixiane. Per quanto riguarda Giant Sands, Oh We Go Gelb, Winston Watson, Tucker Land, Annie Dolan, Gabriel Sullivan, Scott Grabber, King, Congo Power. Excuse me while I never ever end this song. Once I was flying was smoking. She was a dusky, tall American beauty. And I put down my tray table, snorted a gram of cocaine, until I got up my courage to say, "Can I have your phone number?" And she gave me the number. That was the good news. But the bad news was I got too stoned and I lost the number. The stewardess would have been better than the cocaine. I made an error in judgment. But still, I remember smoking on the airplane. Smoking on the airplane. Smoking on the airplane. Everybody did it. They'd gather at the back on the way to Australia and all puff up at once outside the bathroom. And that's why if I had wings, that would be a bad idea. I guess. According to everything I've been taught about the laws of ethics and karma and good behavior. If I had wings, I'd go yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum. I'd have fun. If I had wings, I'd have fun. Smoking on the airplane. Sunlight on my wings. Sunlight on my wings. Sunlight on my wings. Sunlight on my wings. Sunlight on my wings. Sunlight on my wings. You can't do that. You can't do that. You can't do that. Teenage boys used to hijack the airplane and send it to Cuba. Castro would charge 20 grand the airline to get your airplane back. He had a good business. You can't do that. You can't do that. It's over. Can't see that. You can't see that. It's over for the liberal democracies. You can't see that. It's over. You can't see that. Here comes the jungle. You can't see that. Sunlight on my wings. Sunlight.

Tone King. He's a little spoiled chap and his mate's a fucking joking. I know they talk behind my back because they're jealous of my clothing. Dregs and tired eyes, the dregs are mine tonight. Dregs and tired eyes, the dregs are mine tonight. Spit tray, spit tray, spit tray. There's more on the side, do you wanna get it leaning? There's more on the bit top, I want to get it leaning. The people outside, they wanna get a leaning. And I'm so fucking high, I'm gonna get a warning. Dregs and tired eyes, the dregs are mine tonight. Dregs and tired eyes, the dregs are mine tonight. 45 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock, va a terminare. Abbiamo ascoltato abbiamo ascoltato da Team Time Dub Encounters Underworld and Iggy Pop job. No balance circles. You think after all these years in the M, well, I'm walking off. E poi di seguito avrete riconosciuto I'll buy anything. Itching powder, lob it in the Uber, run it over l'acrobatico soul. It's all bullshit. Yes, certain ratio. Una delle formazioni sperimentali più eclettiche che I couldn't stand them shops, travel agents. Alla fine degli anni 70, inizi anni 80 fino ad oggi hanno prodotto un'infinità di suoni e di tentazioni. That's just gonna feel wrong. Per i suoni futuri da venire. I'll buy anything. E poi Sleaford Mods. Sleaford Mods, la band che duo che ascoltiamo più volentieri in questo periodo, potentissimi, aspri, caustici, corrosivi. You wanna see it, but you won't climb over the other. Vi ricordiamo il palinsesto di domani mattina, dopo che la compagna automatica sonata vi terrà compagnia per tutta la notte con le sue selezioni, le sue repliche. Domani mattina si ricomincia alle 8 con le prime pagine dei giornali, della rassegna stampa cittadina, i redazionali, il giornale radio, lo spazio comunicazione, tutto scena, cinema, Attica Blues, oltre al Black Music, la schiena del sole, il Mezzeres dalle 18 alle 20. Alla fine lo spazio comunicazioni, poi lo spazio dedicato al martedì al tuo gestione femminista e lesbica, Apostasia, i cuginetti che riprendono alle 23. Il nostro saluto più importante va a tutti e tutte coloro che ci ascoltano a condizioni di limitata libertà personali. Per un mondo senza sbarre e senza galere. Chiunque sia dall'altra parte delle sbarre è dalla nostra parte. Noi ce ne andiamo così sotto la luna comunista. Dai, e a mercoledì prossimo. Oh.